Il duca gu, can duca gu, se vuol duca gu. I cangul sai duco, tangsindo ca. Hondaso, hemmen, kangen, kriume, talpito, puso, chinende, qui, gangen, uranke, kriun, chu. Gasumul chinda.